Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Inizia tutto a febbraio, quando decido assieme ai miei fidati compagni Luca e Franco di iscrivermi a quello che sarà il mio appuntamento sportivo dell'anno. 110 km e 7000 metri di dislivello positivo. Mi chiamo Herbert, ho 39 anni, sono uno sviluppatore software ormai da 20, sono un trentino doc nato a Clessi in Val di Non e sono innamorato di Francesca e delle mie due piccole Anna ed Elena. Io vi prego di fermarvi un secondo e di aspettare, perché è vero che c'è una categoria di racconti che arriva piuttosto frequentemente che parla di corsa. Questo però ha a che fare con qualcosa di più della corsa. Non è una maratona, non è una gara qualunque, è una roba per cui il limite tra la sanità e la follia è molto, molto sottile. Buongiorno a tutti, sono le 16:10 in punto. Oggi è un bellissimo venerdì, il 21 di marzo del 2014. La primavera è iniziata ieri attorno alle 5:15. Lo so perché ho cercato espressamente la storia dell'equinozio e del solstizio, che ogni anno la dico toppo. Ieri alle 16:45 più o meno è cominciato. Quindi anche se Oscar in onda se la stava prendendo col fisco, con lo Stato, comunque la primavera era iniziata ieri. E questo comunque è una notizia. 349-238-6666. Mentre c'è un amico dall'altra parte del vetro che è venuto a trovarci, che sapete ovviamente anche chi è perché ne abbiamo parlato piuttosto di frequente, è Emilio Previtali, che è sceso dal Nanga Parbat ed è arrivato direttamente qua, e abbiamo chiesto a lui un sacco di cose riguardo a questa puntata, perché vi dicevo, oggi si parla della corsa, forse la corsa più lunga della vostra vita. 349-238-6666, ma anche voi siete qui Radio 24 su Facebook, o voi siete qui R24 su Facebook. Ripeto, la corsa più lunga della vostra vita, in metafora e fuori di metafora. Se avete fatto la maratona, se avete fatto un ultramaratona, questa è di più. Herbert ci dice è la trail running, ovvero la corsa in natura sulle montagne. Era il 6 luglio, erano 113 chilometri e 7000 metri di dislivello positivo. Questa è la storia di Herbert. In questo momento non è facile riordinare le emozioni intense e contrastanti che ho vissuto in questa lunga trasferta in terra elvetica. Appuntamento deciso e programmato da tempo, ma che si è rivelato una sorpresa sotto molti aspetti. Inizia tutto a febbraio, quando decido assieme ai miei fidati compagni Luca e Franco di iscrivermi a quello che sarà il mio appuntamento sportivo dell'anno. 113 km e 7000 metri di dislivello positivo sono il biglietto da visita del Trail Verbier San Bernard, gara giunta alla sua quinta edizione, bellissima e massacrante a detta di chi ci si è già cimentato. La preparazione procede con alti e bassi. Poi, il 5 luglio, si parte da Trento a metà mattina per raggiungere il passo del Gran San Bernardo e quindi Verbier. Qui ritiriamo i pettorali e mangiamo un piatto di pasta, inaspettatamente cotta quasi a puntino, prima di andare a Nanna quando ancora la luce della sera rischiara le cime che l'indomani andremo a percorrere. Alla partenza siamo 311 atleti, provenienti da mezza Europa, pronti a cimentarci in questa gara che, come spesso accade nel trail, per molti risulterà una sfida con se stessi più che con gli altri. Come sempre, la tensione e l'entusiasmo alla partenza sono palpabili, tanto che alle 5 del mattino, al momento del via, in molti scattano veloci come se la prova dovesse concludersi al termine della via che esce dal paese. Invece in quel punto inizia soltanto la prima delle innumerevoli salite che metteranno a dura prova i muscoli e la testa di tutti. Con il trail running ho avuto la possibilità di unire la mia grande passione per la montagna all'amore per la corsa, tanto che da un paio d'anni assieme ad un paio di amici per diletto gestiamo un sito, trentinotrailrunning.it, dove proponiamo i nostri itinerari, i nostri allenamenti di corsa in ambiente naturale sulle nostre montagne di casa. Il primo obiettivo da mettere nel carniere è la Croix de Coeur, posto di controllo che raggiungiamo dopo aver assistito ad una meravigliosa alba a 2400 metri. Le gambe girano bene e il morale è alto. Io e i miei amici troviamo persino il tempo di scherzare durante la lunga discesa che ci porta al ristoro e al rilevamento di Saint-Branchet al 28esimo chilometro. Sorridiamo e rispondiamo all'incitamento delle persone che incontriamo nei paesi e lungo le strade. Ale, ale, ci gridano. Bon courage è l'augurio che riceviamo più spesso. Risaliamo agili verso Champlac e dopo un lungo saliscendi di 14 km raggiungiamo il paese di La Fouly quando è passato da poco mezzogiorno. E qui qui, dopo 50 km e 2900 metri di dislivello positivo, che si può dire avrà inizio la gara vera e propria. La giornata è caldissima, nel cielo non si vede una nuvola. Soltanto il cappellino intriso della fresca acqua delle fontane e dei corsi d'acqua che scendono dalle cime riescono a dare un po' di sollievo per qualche minuto. Dopo un abbondante ristoro, iniziamo a risalire la parte alta della bellissima Val Ferré. L'ambiente è superlativo, i panorami eccezionali. La salita al colle è lenta e faticosa, difficoltosa anche la successiva discesa. La neve, inconsistente, rende difficile l'equilibrio. La pendenza in alcuni tratti è elevata e la corda fissa posizionata per agevolare gli atleti serve a poco. Non resta che sedersi a terra e lasciarsi scivolare a valle. Dal passo del Gran San Bernardo si risale leggermente per poi calare in maniera costante verso il Lac de Toul, un lungo bacino artificiale che costeggiamo interamente prima di raggiungere, verso le 19, l'abitato di Bourg-Saint-Pierre, dove è posto il rilevamento degli 80 km. Lì c'è il ristoro solido dove possiamo mettere nello stomaco un piatto di pasta, del formaggio e qualche fetta di salame. Qui l'impeccabile macchina organizzativa ci fa trovare le sacche lasciate alla partenza. Possiamo così cambiarci calze e scarpe fradice dopo l'attraversamento del nevaio e di numerosi ruscelli. Possiamo indossare una maglietta asciutta e rifornirci con qualche piccola scorta alimentare. Ripartiamo dopo una mezz'ora di sosta per puntare alla Cabane du Col de Mille, il posto di controllo collocato nei pressi di un grazioso rifugio a 2475 metri di quota e al 90° chilometro di gara. Già dopo i primi chilometri però mi accorgo che il passo dei miei compagni è più veloce del mio. Faccio molta fatica a stare con loro, tanto che ad un certo punto non posso che rallentare e continuare con un passo decisamente inferiore. Probabilmente inizio a pagare lo sforzo, lo stomaco duole e la nausea al sopravvento. Il crollo è improvviso e continuare è difficilissimo. Il lungo traverso sulla costa della montagna è eterno, spesso mi siedo ai margini del sentiero e rifiato, sono moralmente a terra. Una concorrente che mi segue si ferma, mi chiede come sto. È svizzera o forse francese, ma parla qualche parola di italiano. Sta un po' con me e poi mi invita a seguirla tenendo un passo più tranquillo. Credo che difficilmente mi dimenticherò di lei. Sulla cinquantina, minuta con i capelli corti e neri e un sorriso rassicurante. Nel momento più difficile della mia corsa, dopo gli 80 km, il momento di crisi, compare questa signora minuta con i capelli neri che si ferma, mi sorride e mi aiuta ad arrivare a quello che sarà poi il punto dove riuscirò a riprendere le forze al 90° chilometro. Al posto di controllo ormai ho pochi dubbi. Il mio obiettivo è scendere a valle e chiudere in anticipo questo calvario. Bevo del brodo caldo, mi siedo su una panchina e con la testa fra le mani chiudo gli occhi. Visualizzo nella mente i visi delle mie bambine, di Francesca e dei miei cari, cercando di trarre energia da loro che sempre mi supportano e mi sopportano in queste mie corse per i monti. Poi una mano sulla spalla mi desta dai pensieri. È una ragazza giovane, carina, con una giacca a vento rossa. È uno degli addetti al ristoro. Gentilmente mi chiede se va tutto bene, le dico di essere stanchissimo, di avere sonno. Continuo dicendo che voglio solo arrivare a valle al 100° chilometro e ritirarmi. Lei mi dice che se voglio posso dormire per un po' nella cabana. Io tentenno un attimo e poi accetto. Sono le 22:30 quando mi sdraio sul materasso al piano basso del letto a Castello del Rifugio. Chiedo di essere svegliato a mezzanotte e poi crollo distrutto. Con puntualità svizzera alle 23:59 vengo svegliato, sembro un'altra persona. Lo stomaco sta meglio, bevo un altro sorso di brodo, calzo la pila frontale, ringrazio e saluto tutti, prima di scendere verso valle con passo deciso. Continuare da solo nella completa oscurità non è un problema. In poco meno di 2 ore raggiungo il posto di controllo di Lourtier. Adesso mi rimane solo l'ultima salita, ma so che non si tratterà di una passeggiata. Mi aspettano 1200 metri di dislivello da coprire in poco più di 5 km. È un muro verticale che mi separa dal traguardo di Verbier. Imposto un passo lento e costante, la salita è veramente pazzesca e non concede nemmeno un metro di piano per rifiatare. Mentre salgo, sento una vibrazione nello zaino. Qualcuno mi sta chiamando al cellulare. È Luca. Lui e Franco sono al traguardo. Sono stati bravissimi, hanno concluso la loro fatica in 22 ore e 22 minuti. Per me invece c'è ancora da soffrire. Finalmente, in lontananza, intravedo le luci dell'ultimo ristoro e posto di controllo alla show, che raggiungo dopo un lungo traverso in piano. Adesso so che è fatta. L'ultima discesa non mi spaventa, sebbene i quadricipiti reclamino un attimo di tregua. Il cielo inizia a schiarirsi e mi godo nuovamente la vista delle cime che ho ammirato alla partenza la mattina precedente. Ripongo la pila frontale nello zaino. È ormai giorno, quando arrivo alle porte di Verbier. Entro nel paese e poco prima dell'arrivo trovo Luca e Franco che sono rimasti ad aspettarmi. Taglio il traguardo alle 5:59, dopo 24 ore e 58 minuti di fatica. È stata durissima, più del previsto, ma sono fiero di essere il 112esimo dei 186 atleti che ce l'hanno fatta a chiudere questo lunghissimo anello. Sembra un fotomontaggio, lo ammetto, sicuramente non è così, ma sembra un fotomontaggio un po' per la luce strana che colpisce Herbert in questa foto, ma soprattutto per il panorama dietro. Lui è in divisa da trail runner, direi, ha anche delle bacchette in mano, fa il dito, il pollice alzato verso la telecamera e alle sue spalle un mare di nuvole e delle montagne innevate. Pronto Herbert? Ciao Matteo, come ciao, stai? Adesso ho riposato. Dove ti trovi esattamente in questo momento? In questo momento sono in auto, sono in un parcheggio, mi sono preso qualche minuto per stare con voi. Il parcheggio è il secondo luogo preferito dagli ascoltatori di Voi Siete Qui che partecipano al programma. Il primo è di solito sotto le scale, negli sgabuzzini o nei bagni dei propri uffici. L'altro sono i parcheggi, quindi io mi immagino che più o meno alle 4:15 in giro per l'Italia ci sia sempre una persona chiusa in un bagno da solo, come un qualunque personaggio di Breaking Bad, in un parcheggio a parlare al telefono. Sei uscito dal lavoro, ti sei preso mezza giornata di ferie? Sì, diciamo che l'occasione era unica per me e quindi era necessario prendermi il giusto tempo. Per godermela. Herbert, allora, ricordiamo un attimo l'impresa. Sono 110 chilometri. Sì, 110 che poi in realtà sono diventati 113, okay. E 7200 metri di dislivello positivo. Spiega per chiunque non abbia idea di cosa sia un dislivello, positivo o negativo. Vuol dire che tu sei salito per un numero di metri pari a 7000, giusto? Esatto. 7200. Esattamente, sostanzialmente nell'arco dei 110 chilometri ci sono state una serie piuttosto consistente di salite e relative discese, per cui mettendo insieme il dislivello delle salite si accumula, diciamo, questa 7200 metri, e poi ovviamente ce n'è altrettanto negativo perché poi bisogna anche scenderlo questo monte, ovviamente, se no continui a salire arrivi all'Olimpo. Herbert, tu hai una famiglia, hai uno straccio di moglie, delle figlie, come mai? Che cosa ti porta a fare queste avventure che diciamo sostanzialmente asciugano una giornata del tuo anno in maniera totale, direi, nel senso che tu quando ne esci sei una persona un po' diversa? Sicuramente, anzitutto per affrontare una gara di questo tipo c'è bisogno di una preparazione, quindi diciamo che la gara è poi la scusa per poter uscire 3-4 volte in settimana in quelli che chiamiamo allenamenti, ma che poi in realtà è il piacere di incontrare la montagna e quindi gli animali che la popolano, i sentieri, gli altri. Piace. Diciamo che la famiglia è sempre la migliore scusa per fare qualsiasi altra cosa, pur di non rimanere chiusi in casa. Scusami Herbert, cosa vogliamo dire a Rino, che quasi in maniera commovente ci scrive: la corsa più lunga della mia vita è stata Lisanza Mottarone, 46 chilometri e un dislivello di 1300 metri. Rino, siamo con te, però rispetto alla Verbier, no, com'è che si chiama, scusami, Verbier San Bernardo. In realtà mi tolgo il cappello di fronte a persone, atleti che hanno fatto gare molto più lunghe. Ci sono gare di 160 km, ce n'è una, Tour de Jean, molto famosa, la regina degli ultra trail in Val d'Aosta, che è 330 km, per cui diciamo che il mio può sembrare lungo, ma vi assicuro che ce ne sono di più. Ma lunghe, questo lo immagino, non c'è mai limite, insomma, alla realtà. Herbert, alla quanti anni hai tu? Io ho 39 anni. Hai 39. Il fisico comincia a darti qualche segnale oppure vai dritto? In realtà è una disciplina particolare questa, dove conta tanto la testa quanto il fisico, per cui il fisico è una delle componenti che ti permettono di raggiungere il traguardo, per cui non è infrequente trovare persone di 60-70 anni che arrivano al traguardo di gare di questo tipo davanti a persone più giovani. Ma te lo dico perché Ulmo è l'esempio, il nostro esempio nazionale per eccellenza, insomma. Te lo dico perché ieri sono andato da un osteopata che mi ha proprio dichiaratamente detto 35 anni. I 35 anni sono il momento in cui il tuo corpo ti fa capire che cosa hai fatto di sbagliato nella tua vita. Cioè, se eri troppo piegato in avanti, se camminavi storto. Girati 35 anni succede quella roba lì. Herbert, quali sono le prossime gare? Quest'anno per me è un anno di non sabbatico, ma sarà un anno di ricerca di itinerari trentini per diciamo rimpolpare un po' le proposte che mettiamo sul nostro sito agli appassionati che insomma cercano qualche giro, okay. qualche visto uscita. Che ti devo salutare, ricordalo il sito, così se qualcuno vuole venirci a correre con voi ci trova suggerimenti. Certo, il nostro sito è trentinotrailrunning.it. Okay. Sono giri di corsa sui monti del Trentino. D'altra parte, chi non ha voglia di farsi una bella corsa in montagna? Herbert, grazie ancora, grazie, e a voi, buon weekend. Ciao, grazie. Ciao, ciao. La corsa più lunga della vostra vita, fuori di metafora, adottare un figlio. Mauro, la corsa da mia moglie che stava per partorire, ma me la sono persa. E ancora Antonio, andare in Argentina per chiedere alla mia futura moglie di sposarmi. Michele, tornare a casa da Las Vegas. 4 giorni, che incubo, non si capisce tornare a casa come, in che modo. E poi ancora Jack che scrive Saint-Jean-Près-de-Port, Santiago, Finisterre, un mese di dolce cammino. Qua però si parlava di corsa, in realtà si parlava di trail running e di roba che in qualche modo ti toglie il fiato. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Voi continuate a raccontare storie, continuate a raccontare, a scrivere e a mandarcele. Voi siete qui, @radio24.it, un episodio della vostra vita semplice che in qualche modo racconti qualcosa di voi. Ascoltateci in diretta, in streaming, la mattina alle 5, scaricate i podcast sul sito di Radio 24 o altrimenti da iTunes in abbonamento gratuito o sulle app che trovate in giro. Grazie ancora, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. Grazie soprattutto ad Herbert, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Voi siete qui.